Io ho dei ragazzi speciali, ho una società che è speciale e, come ho detto prima, penso anch'io di essere speciale. No, io mi sento normalissimo, io sono il normal one. Il normalone, detta insomma. Il normalone sembra un po'... No, sembro sovrappeso, visto che un po' ci tengo la linea, insomma. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Tutti convocati. Io zappavo la terra. Di Carlo Genta. Franco Piantanida, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Buongiorno a tutti, anche a Stefano che mi scrive: non faccia cagate la cronaca rosa, lascia la Panicucci. Ma Stefano, ma che ce frega? Che ce frega del sorteggio di Bayern-Juventus, di Fenerbahce-Lazio che si gioca anche a porte chiuse all'andata e al ritorno, di una tristezza assoluta, il derby delle porte chiuse dei quarti di finale di Europa League. Ma che ce frega della remontada incompiuta dell'Inter? A proposito, sparate pure sul pianista, come avete fatto, come avete cominciato a fare dalla notte scorsa con le email e con Facebook. Io che ho detto e me ne assumo la responsabilità, una remontata dell'Inter non ci credo neanche se la vedo. L'ho vista, peccato che è rimasta incompiuta. Ho fatto un tifo dannato per l'Inter, perché quella partita la meritava, l'ha meritata fino in fondo, e mi è rimasto qui quel tiro di Cambiasso a fil di palo al 94esimo. Ma in fondo che c'è frega di Cassano, che con il gol di ieri prende altri 200.000 verdoni, perché scatta il bonus dopo l'11esimo gol stagionale. Ci frega poco anche dello Sceicco in similoro di Roma oggi, Sceicco che è stato smascherato e quindi in convento non ci vado. 800240024, ma che ci frega di Messi e del Camp Nou, dove giocherà il Paris Saint-Germain. Le cose belle nel grigiore di questa dannata vita sono altre, queste. Io un'ultima domanda, poi so che ti dobbiamo lasciare andare, quelle più o meno cattive aspettano. Ma Anna non mi fa domande? No, io evito. Non lo so. Allora ti faccio una io? Sì. Vuoi sposarmi? Ma per carità. Mamma mia, ragazzi, è bellissimo questo. Grande Leo! Mi ha detto di no. Mi ha detto di no due volte. Grande due Leo! Volte non devi dire di sì adesso. Questa è una carambata terribile. Cioè, mi deve rispondere? No, no, io sono a casa. Queste cose a casa. I close my eyes. Comunque aspetto la risposta, basta dire di sì, basta, non è così difficile. Va bene, grazie. Va bene cosa? Grazie. Va bene cosa? Va bene sì. Già che abbiamo preso e Barcellona, ci sposiamo, dai. Dai, una grande festa proprio. Grazie, ciao. Un bacio. Ciao, ciao. Ciao. Allora sì, Cioè, ragazzi, meraviglioso. Sorteggio di Champions League. Bayern Juventus, ormai lo saprete, abbiamo detto anche nel giornale radio. Va meglio Real Madrid che prende il Galatasaray, poi c'è Malaga, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain Barcellona. Ma chi se ne frega di Messi, chi se ne frega del Camp Nou? Leonardo ai microfoni di Sky chiede ad Anna Billola, avete sentito. Vuoi sposarmi? Ma che meraviglia! Luca Calamai, inviato della Gazzetta dello Sport. Ciao Luca! Ciao, buonasera a tutti. A me è piaciuto... Vedo belli allegri, eh? No, ma mi è piaciuto, mi è piaciuto più questo del sorteggio, ti dico la verità. Sì, hai ragione. Meglio del bacio di Casillas e la Carbonero. No, non ti è piaciuta? Sì, tutto... Vabbè, divertente, ma smitizziamo anche un po' le cose, dai. Ma sì, ma poi insomma, poi vedo Fenerbahce-Lazio, derby dei quarti di finale a porte chiuse, mi viene una tristezza che quando sento Leonardo, insomma, guardo fuori e c'è il sole, mi sembra sia quasi primavera. Ci siamo. Bayern-Juve invece cosa dici? Male. Beh, prima o poi qualcuno la devi trovare, Nella mia classifica il Bayern veniva subito dopo il Barcellona. Cioè, Barcellona è è comunque una squadra di fuori categoria, se gioca, se voglia giocare, se... Dopo di queste, ragionando sulla Juve, sì, la peggiore secondo me è il Bayern, perché il Bayern è una Juve, anche come modo di giocare, con però tutta quell'esperienza di Champions che la Juve non ha, tutto quel potere di Champions che la Juve non ha, tutta la possibilità di pensare alla Champions, visto che se la Juve l'ha quasi vinto il campionato, loro lo hanno già stravinto. Secondo me dopo il Barcellona è quanto di peggio. Molto meglio sarebbe stato il Real Madrid, il Paris Saint-Germain. Guarda, io nella mia classifica invece quella che avrei voluto evitare è il Real Madrid, cioè sono d'accordo con te su tutto tranne che sul nome di quella da evitare assolutamente, perché il Real Madrid è quella che secondo me fa più paura in Champions League insieme al Bayern Monaco, che hai ragione, è una Juventus tedesca con forse ancora più forza fisica della Juventus, forse con, anzi quasi certamente con più talento, perché gente come Müller, Kroos, Schweinsteiger, eccetera, con quell'esperienza internazionale la Juve non ce li ha. Guarda, mi raccontava Marcello Lippi, uno che comunque di battaglie ne ha fatte, che è quasi impossibile arrivare in Champions e vincerla. Sì. Cioè, dice, la Champions è un torneo speciale, ma è chiaro. Che te devi cominciare a annusare, devi cominciare a dimostrare di poterla vincere e poi la vinci. Ecco, il Bayern, se ci fai un attimo il caso, ci è già arrivato molto vicino tante volte, proprio ultimamente, è abituato a questo tipo di partite. Ti confesso, anche da un punto di vista emotivo, non ti genera quell'adrenalina che ti genererebbe sicuramente il Barcellona e probabilmente anche il Real Madrid. Ma il Real Madrid è, mentre il Barcellona, ripeto, se ha voglia di giocare, se trova dentro di sé le motivazioni, è di un altro pianeta. Il Real Madrid è una realtà misteriosa, nel senso che ha qualità in maniera industriale, ma ha un allenatore che è contro tutto e contro tutti, il giocatore di riferimento che vedi anche dai gesti che fa, tipo a Manchester, è uno che ha la valigia pronta. Sì. È un momento strano, il problema di Casillas, è una di quelle squadre che se le vedi e le leggi nei nomi ti terrorizza. Però calcolando la capacità della Juve di non subire questo problema reale, l'impatto reale, anzi la Juve si carica nelle situazioni delicate, ragazzi, stiamo parlando di grandi squadre, Però Luca, mi sembra che ci siano tante squadre. Allora, io dico, poi il pronostico non è becco uno, neanche morire, poi gli ascoltatori ho già sull'elmetto per aspettare gli interisti da ieri. Però Real Madrid è la mia personale favorita per la vittoria di Champions League. Con le valigie pronte ce ne sono tanti. C'è Cristiano Ronaldo, come dici tu, c'è Mourinho, c'è anche Jupp Heynckes che darebbe, credo, un braccio per consegnare il Bayern Monaco a Guardiola con la Coppa da difendere. Ma che scherzi. Sarebbe la sua grande vendetta, no? Ah, certo. Sarebbe... Ma non sottovalutare la potenza anche a livello politico della Germania. Cioè, oggi la Germania è il paese di riferimento anche per l'UEFA. Io non ti costruisco niente, cioè non è che ti dico... No, ma lo sappiamo. Contesto tutti quelli che ritengono che ci siano sempre i grandi vecchi dietro le cose. Ma oggi la Germania è un paese di riferimento, cioè nel momento in cui lo sceglie Guardiola tu capisci tutto. E loro avranno la possibilità di preparare la Champions tranquillamente. Se non sbaglio, ma correggimi, perché credo che il vantaggio può avere la Juve di giocare la prima in Germania. Sì, è così, vero, no? Vero. Ecco, questo è un vantaggio importante per due motivi. Perché il Bayern secondo me è più pericoloso fuori casa che in casa. E quindi in casa sarà costretto a fare una partita strana. Strana nel senso che è chiaro che giocherà per vincere, ma soprattutto non la vuol perdere. Per non prendere gol, certo. Non la vuol perdere. No, ma 0-0 è un grande risultato. E questo dà un vantaggio grosso alla Juve, cioè è la Juve che la deve vincere là. Sì. Perché il Bayern là la può perdere. Sì, sì. E questo è il piccolo grande vantaggio che viene da un sorteggio assassino, perché se avessi preso il Malaga, avessi preso il Paris Saint-Germain, un grande ostacolo lo trovi, perché adesso dopo il Celtic ci sta anche una grande, ma anche perché è bello così, io credo la Juventus credo sia la prova del 9 per la Juventus e per le sue ambizioni di di grandezza. Luca, ti chiedo un attimo di pazienza per il traffico e poi vorrei chiudere il discorso con te sull'Inter e sul profumo di turno chiave che c'è da questa decima giornata di campionato. Strade 80024 0024, state con noi. Posso abbracciarti? Ti è piaciuta? Bella? Ti è piaciuta? È impazzito. Tutti convocati. Vuoi sposarmi? Grande Leonardo, mi fai impazzire. Luca Calamai, allora, adesso tra poco comincio a parlare con gli ascoltatori 80024 0024, che già stanotte hanno cominciato a mandarmi mail e messaggi su Facebook. Ti sei sbagliato, perché io ho detto non ci crederò mai, neanche se la vedo. Ieri l'Inter è tutta la sua rabbia, una partita meravigliosa, la migliore interstagionale, e guarda caso l'emblema di questa partita è stato Antonio Cassano. Giuro che non so cosa possa succedere contro la Sampdoria, basta che poi non spunti l'alibi dei 120 minuti in Coppa. No, l'Inter non è eleggibile. Non è eleggibile. E non prendere la partita di ieri sul serio. Ieri ho fatto un tifo da matti per l'Inter, come penso chiunque, perché ci ha preso, no? È come quelle storie che ti entrano dentro, e poi da inguaribile romantico volevo il lieto fine, invece purtroppo c'è stato questo schiaffo finale. Ma non fa testo, è un articolo fuori pagina, non c'entra niente con l'Inter vera. Quella è una partita che te giochi sapendo che sei fuori, non hai niente da perdere, e la giochi con quella spensieratezza, quella serenità, ma al tempo stesso anche quella voglia, questo sì, di dimostrare che la squadra non è contro l'allenatore. Allora, dalla partita di ieri emerge solo questo, il resto prendilo con un qualcosa che non ha a che vedere con l'Inter, che è una squadra che ha un progetto confuso, che ha sbagliato il mercato, che secondo me compra i giocatori quando ha la possibilità di prenderli, ma non con un percorso, no? Cioè, te prendi il Milan ha scelto di prendere tre giovani ventenni in attacco, i migliori che c'erano, perché per immaginare di costruire, di avere fra 3-4 anni il miglior attacco del mondo. È un'idea, è un progetto. L'Inter si libera Kovacic, prende Kovacic, si libera Kuzmanovic, prende Kuzmanovic. Prende quello che il mercato offre, ma te hai capito qual è il punto d'approdo finale dell'Inter? E ti aggiungo, dopo 7 mesi si è capito qual è il progetto tecnico dell'Inter? Non è progetto tecnico Ranocchia centravanti, è la follia di una partita fuori dagli schemi, ma quando poi il calcio torna nella sua logica, l'Inter è un progetto incompiuto. Tra l'altro ti devo dire che i dubbi che vengono messi ora sulla figura dell'allenatore, secondo me, aumentano questa confusione. Io credo che se te società, in un momento in cui scegli una politica diversa dagli investimenti totali del passato, investi su un allenatore giovane, gli devi dare come minimo 2 anni di lavoro. Sì, certo. Senza non puoi giudicare su un anno, perché cosa vuoi che accetti? Stramaccioni ha la colpa, secondo me, di aver cercato un compromesso tattico invece di andare dritto per una strada. Ma devo dire, calcolando l'età e la gioventù, gli va dato come minimo il beneficio di riprovarsi, se no, secondo me, ha proprio buttato via un anno a prescindere da qualsiasi risultato. Sì, invece viene messa in discussione una partita sì e l'altra no quando le cose vanno male, però sappiamo che funziona così, no? Questo ambiente, al di là delle colpe che poi ci affibbia. Noi non credevate nell'Inter, voi giornalisti, adesso no, vedete, guardate come siamo, abbiamo ancora il cuore, l'anima, ma non lo so. Vedi che se te analizzi l'Inter, no? Il dato che deve più allarmare non è tanto il presente, il quanto l'Inter ha già comprato 6 giocatori. Va bene? Sì. E i nomi sono quelli che sono già usciti sui giornali. Ma tra questi non c'è un campione. Tra questi non c'è un giocatore, forse solo Icardi per certi versi, non c'è un giocatore che sarebbe titolare in una grande squadra, un grande club europeo. Sì. Allora, non mi piacciono le grandi squadre che comprano tanti giocatori. Mi piacciono le grandi squadre che comprano pochi giusti. Ma di quelli E quando poi si parla chi può allenare l'Inter, ma secondo te Mourinho allenerebbe una squadra che ha comprato quei sei giocatori? Sì, se gliene chiede altri sei e quelli ve li fate giocare per voi. Esatto. E Guardiola, secondo te, allenerebbe una squadra con quei sei giocatori? No, e allora già questo ti dà il target di dove sta andando l'Inter, e non è un posto dove mi piace. Io sogno un Inter che ritorni velocemente, perché ne abbiamo bisogno tutti per rivalità, per passione, per di un Inter di dell'Inter, alto livello. Dell'Inter ad alto livello c'è bisogno, così come della Juventus e del Milan ad alto livello. È inutile stare lì a far finta di no. Luca, ti ringrazio tanto. Grazie. Un abbraccio. Grazie. Ciao. Luca Calamà, inviato alla Gazzetta dello Sport. Aspetto gli ascoltatori. 800 24 00 24. Sono qui con l'elmetto. Io a una remontata dell'Inter non ci credo mai e poi mai. Cassano 1-0 per l'Inter. Palacio. Deviazione! 3-0! 3-0! Ringrazio i ragazzi di là che hanno messo insieme questo collage. Si sono dimenticati poi il gol di Adebayor che ha sgonfiato il sogno. Stefano Catania, 800 24 00 24, per i miei amici ascoltatori. Buongiorno! Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Io chiamavo per commentare il sorteggio della Juve. Sì. Ma io, a differenza di quanto ha detto il dottor Calamai, io non sono d'accordo sul fatto che il Bayern sia poi così forte. Insomma. Perché intanto è formato, sì, è forte tecnicamente, però è la classica squadra che al momento importante si scioglie. Loro l'anno scorso, quando giocavano in casa col Chelsea, avevano la paura negli occhi. Infatti ai rigori hanno fallito alla grande. Schweinsteiger scompare sempre. E poi noi italiani con i tedeschi diamo sempre il meglio, no? Ma sono tutte speranze che condividiamo. Io vedo il Bayern come una grande squadra. Poi l'anno scorso, ma io sono dell'idea che giocare una finale in casa sia sempre una brutta storia. Il Bayern l'anno scorso lo ha dimostrato, perché anche loro sentono la pressione, perché il Chelsea, è vero, era un po' la squadra del destino, però erano nettamente più forti. Io considero il Bayern una delle tre migliori d'Europa insieme alle due spagnole. Però io ad esempio la preferisco al Borussia Dortmund, perché secondo me il Borussia Dortmund è la squadra tedesca tipica più pericolosa del Bayern, eh? È il classico underdog di questa Champions League. Esatto. È una squadra che per certi versi assomiglia alla Juventus, come fame, come gruppo, come corsa, come motivazioni, eccetera eccetera. Juventus e Borussia Dortmund sono le due grandi outsider, se mi permettete, di questa Champions. Io credo che per la Juventus il Bayern sia davvero la prova del 9 delle sue ambizioni europee, cioè se riesce a passare questo turno, allora si possono immaginare e sognare anche i cancelli del paradiso, senza puoi dire che ci si arriva, perché ha ragione Luca Calamai quando cita Marcello Lippi: non puoi affrontare la Champions League dicendo il mio obiettivo è quello, perché è un torneo in cui le stelle contano tantissimo. Grazie Stefano. Paolo, provincia di Treviso, 800 24 00 24, numero verde. Paolo, buongiorno. Vorrei sentire le signore anche oggi, perché Leonardo secondo me è stato il numero uno assoluto. Dica, Paolo. Allora, due considerazioni veloci. La prima, a me il sorteggio è piaciuto moltissimo, perché se gli sfavoriti saranno eliminati avremo delle semifinali stellari, indipendentemente dalla Juve cosa farà. Dunque, perché Real, vabbè, poi i sorteggi delle semifinali in realtà bisogna farli, eh? Sì, però se passano le favorite avremo Real, Barcellona, Borussia Dortmund e una tra Juve e Bayern. Comunque sì, avremo semifinali di altissimo rango. Ma no, ma io comunque mi sto divertendo molto in questa stagione europea, dico la verità, compreso quanto è successo ieri in Europa League. Vabbè, lasciando stare la Lazio magnifica, no? Nella cosa più triste, nel contesto più triste che c'è, quello di uno stadio a porte chiuse, e io non voglio neanche vedere Lazio-Fenerbahce, leggerò poi il risultato, perché due partite a porte chiuse nei quarti di finale di una Coppa Europea non le reggo. Però mi sto divertendo molto. Sì, dica. Molto veloce. Una cosa che io ho notato nella partita del Milan, anche se è passato qualche giorno, Barcellona-Milan, il Barcellona, la grossa novità che ho visto nella gara di ritorno è che i primi 20 minuti li ha passati a tirare da fuori area, senza insistere nei triangoli per voler arrivare davanti al portiere, e crossare palle dal fondo con Dani Alves, anche se non aveva nessuno in area a colpire la palla di testa. Sì. Io ho visto questo aggiustamento tecnico più che tattico sulla partita, e secondo me il Milan è andato fuori fase, soprattutto perché non si aspettava una reazione del genere. E se si vede un replay del gol di Messi, al di là della bravura tecnica del giocatore, si vede che è contornato da quattro giocatori del Milan. Nessuno aggredisce la palla, sul tutti primo, aspettano che la scarichi. Sul primo, lei secondo, dice? Sì, sul primo. No, sul primo. Io lui sul è primo... contornato da quattro milanisti e la tira. Nessuno dei milanisti si aspetta il tiro da fuori area. Paolo, guardi, posso dire, su quel primo gol di Messi, veramente, non, secondo me, non c'è niente da dire e nessun appunto da muovere neanche ai milanisti. Bisogna solo alzarsi in piedi e applaudire, perché ne parlavamo ieri con Filippo Galli, che ha fatto il difensore di un Milan che ha vinto tutto. E lì è stato straordinario Lionel Messi, straordinario, perché ha controllato e ha tirato in porta in quel modo, in una frazione di secondo. Io non penso si potesse far nulla in quell'occasione. Poi sul resto parliamone pure, perché comunque resto dell'idea che sia stato un Milan non perfetto nella lettura difensiva di questa partita, in chiave difensiva di questa partita. Pietro Modena, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io sono un super tifoso della Juventus e devo dire che sono contentissimo di aver preso il Bayern Monaco, perché adesso, cioè, fuori secondi, no? Eh? Fuori secondi. Ma certo, fuori secondi, lo dicevo prima, la prova fuori del 9. Fuori secondi, e credo che non sono d'accordo con il dottor Calamai, che mi pare di aver capito che dicesse il Bayern Monaco non crea gli stessi stimoli di Real Madrid e Barcellona. Non sono assolutamente d'accordo, perché è una squadra che è arrivata in finale di Champions, ha perso solo perché è stata assolutamente sfortunata. No, ma su quello sono abbastanza d'accordo con lei, anch'io non la vedo tantissimo come Luca Calamai. Il Bayern Monaco è una delle grandissime d'Europa, è una delle classiche d'Europa, quindi credo che gli stimoli, ma poi considerato il livello, non faranno difetto alla Juventus. Il problema è che a me il Bayern Monaco sembra un po' una Juventus evoluta, con più talento, ripeto, e con grandissima fisicità. Quindi, però ha ragione Pietro, fuori secondi è la prova del 9 per le ambizioni europee della Juve. 800 24 00 24, Borsa, poi di nuovo qui. Grande, grande radio, siete bravissimi. Prendersi con Stramaccioni è come sparare sulla Croce Rossa, se non... Tutti convocati. Ragazzi, con buona pace di tutti, siamo finalmente al capitolo finale della saga dello Sceicco di Roma. Sono lo Sceicco Giordano, da dove cresce il petrolio. Sono lo Sceicco Giordano, non vengo a Roma in cammello. Ma perché mi fanno tutte queste feste? Sei il figlio dello sceicco. No, si sono accorti che io sono napoletano. Sceicco napoletano. Amico mio, i meridionali all'estero si sono sempre rialzati. Dammi la Roma. Divertimento è finito, ragazzi, ci ha tenuto compagnia per un paio di settimane al Kudumi, e invece leggo ad esempio il trafiletto sul Corriere della Sera, lo sceicco non c'è più. Un comunicato della Roma, richiesto dalla Consob, mette fine alla telenovela dello sceicco che aveva promesso 50 milioni di euro per entrare nel club. L'investimento non è stato finalizzato e non ci sarà proroga. Il progetto va avanti con Unicredit. Notizia di oggi, lo sceicco è stato iscritto nel registro degli indagati, nel fascicolo aperto dalla Procura di Roma per la trattativa intercorsa con la società, appunto, e terminata ieri con nulla di fatto. Lo sceicco è indagato per il reato di aggiottaggio. Oh yeah, dammi la Roma. Allora, Ennio, provincia di Reggio Emilia, poi parliamo un po' di basket, naturalmente, come sempre, al venerdì. 800 24 00 24, il numero verde. Ennio, buongiorno. Buongiorno a lei, signor Carlo. Io sono un vecchio interista di stampo prischiano. Di sono stampo prischiano, va bene. Allora, le voglio dire una cosa. Ho notato un po' di faziosità nei confronti dell'Inter, anche da Luca Calamai, che è appena uscito, che è appena nell'intervento che ha fatto. Le voglio solo ricordare una cosa. Noi interisti diamo una scorta dura. E le dico una cosa. Io a 16 anni ero al Martelli, quando Di Giacomo, nostro ex centravanti, fece gol a Dino Sarti. Perciò può capire il susseguirsi delle disavventure, certo, di questa pazza Inter. Certo. D'accordo su questo? Pazza assolutamente sì, fazioso anche io no. Torino, dico bene. Ma no, ma che tra l'altro è il più bello della Serie A secondo me. Ma eh? voglio parlare del Milan, perché voi milanisti avete dimenticato una cosa. Chi? Loro? Che c'entro I io? I milanisti hanno dimenticato una cosa, che noi, pazza ma buona Inter, li abbiamo aiutati a risollevarsi, perché tutti dimenticano che quando c'era allora il sindaco Tognoli, socialista, e c'era ancora Ivanhoe Fraizzoli presidente, noi dammo 3 o 4 giocatori al Milan per risalire dalla Serie B. Lei queste cose le deve sapere. In quanto a Luca Calamai, torno a dire che l'Inter del triplete fu una squadra raffazzonata, presa dagli scarti del Real Madrid. No. Cambiasso, peso costo zero, Schneider. Un attimo, Ennio, bisogna fare dei distinguo. Allora, su quella l'Inter che diede i giocatori al Milan per risollevarsi quando era in Serie B, facendo mente locale non me ne ricordo. Primo, secondo, l'Inter del triplete non era affatto una squadra raffazzonata, ma una squadra fortissima, a mio parere, perché bravi loro a prendere. A proposito, c'è Moratti che parla, sentiamolo un attimo con Sky. Beh, ovvio, cioè molto fieri, molto, molto contenti di questa buona prova della società, della squadra. E niente, adesso che sia il buon auspicio per il futuro, tutto questo. Prima della partita aveva già confermato la fiducia di Stramaccioni, a maggior ragione dopo la partita è ancora più salda, anche perché è sembrato che la squadra stia con l'allenatore. Sì, mi sembra di sì. Sì, ma c'è ogni partita, però questo è il tema, avremo molto da parlare. Però bisogna fare un'altra prestazione come anche in campionato, perché è importante arrivare al terzo posto. No, c'è perfettamente ragione, infatti la cosa negativa di ieri sera possono essere i tempi supplementari, anche se nell'insieme psicologicamente, moralmente il tutto è positivo. Poi dopo fisicamente è importante che ci sia ancora la forza di far bene la partita di domenica. Questo Moratti oggi, adesso basket. Well, now they gave him his orders in Monroe, Virginia. They said, Steve, you're way behind time. This is not 38, this is old 97. Put her in the dispenser on time. Ciao Coach Dan Peterson. Ciao Carlo, ormai questa è la tua sigla. È il leitmotiv del mio intervento ogni venerdì. Assolutamente, se non ti piace ne troviamo un altro, a me piace. No, fermiamoci qua. Senti, mi sembra che stavamo parlando di Inter, la rabbia dell'Inter sia un po' quella di Siena, che l'Inter perde i supplementari dopo aver sfiorato la rimonta, Siena perde di uno con i campioni d'Europa dell'Olympiacos. L'Inter è fuori, Siena rischia tantissimo. Well, Siena rischia sì, però sono sempre stati vittorie. Ovviamente Barcellona è primo, perché adesso c'è Siena e Olympiacos con 7 vittorie e 4 sconfitte, mancano 3 partite, e 3 altre squadre con 6 vinte e 5 perse, c'è Maccabi, Kaya Laboral e Khimki, che ha perso a Maccabi ieri sera. Quindi ci sono sostanzialmente 5 squadre per 3 posti. Con una vittoria in più, ovviamente, se adesso sei Siena va a Besiktas, la prossima riesce a vincere, lì si mette un pochettino a posto. Però ovviamente Barcellona in casa non è esattamente un ospite gradito, e poi ovviamente deve andare a Kaya Laboral, che dopo un momento difficile sembra di essere di nuovo in salita. Sì, quindi, se non sbaglio, però confronti diretti negativi sia col Maccabi che con il Khimki. Yeah. E con Olympiacos vinto di 2, perso per 1, cioè vantaggio per ovviamente per Siena, però meglio non contare su questi punti ogni volta che una squadra italiana, probabilmente nel calcio, ma sicuramente nel basket, conta su differenza, boom, arriva una cosa negativa. Io so che un paio di volte Siena è stata fuori per un punto, Milano un anno per un punto, cioè vado alla memoria qua, ma queste sono cose che non tornano mai a favore delle squadre italiane. Meglio avere una vittoria in più e non parlarci più. Certo. Coach, domenica invece in campionato c'è la partitissima che nessuno si sarebbe mai aspettato a metà di marzo. Prima contro seconda, che non sono Milano, Siena, nemmeno, per non parlare di Bologna, Sassari contro Varese. Ma guarda, e c'è anche Roma al terzo posto. Chi avrebbe detto, Carlo, ad agosto, a settembre, ad ottobre, che a questo punto qui, metà marzo, proprio il di marzo, sì, che siamo con le tre squadre di Eurolega che fanno quarto, quinto, sesto, sì, posto, e altre tre squadre outsiders, a dir poco, che okay? Nessuno, io per prima, ok, cioè, nessuno avrebbe messo queste tre squadre ai primi tre posti. Anche perché non indoviniamo un pronostico, e se l'avessimo detto ci avrebbero messo la camicia con le maniche lunghe. Carlo, ti devo dire che sono di un contento per i pronostici adesso, perché Bagatta, Guido Bagatta, nostro collega a Sport Italia l'altro ieri, ha detto: sento nell'aria una vittoria di Fenerbahce, una sorpresa. Sì, del basket ne ha preso 40, non so cosa dire, e ha detto: Guido, ti voglio, ti voglio bene. Ti voglio bene, sì, dell'anima, sì. Grazie mille per avermi sollevato l'anima. Quindi, senti, coach, senti, ma a proposito di amore, tu da grande uomo di televisione, hai sentito Leonardo e la sua proposta di matrimonio in diretta? Chi ha fatto questo? Leonardo. Leonardo, presidente del Paris Saint-Germain, Leo. Ah, ex... ma no, che ha fatto proposta di matrimonio a qualcuno. Ad Anna Billò, sua compagna da tempo, oggi sorteggio di Champions, e Leo che in diretta le ha chiesto di sposarla. È stato meraviglioso. E lei cosa ha detto? Non era convintissima, ma alla fine lui ha insistito molto, e alla fine lei ha detto: ma sì, dai. Sì, ok, va bene. Facciamo una bella Leonardo è una grandissima persona, cioè proprio, non mi ricordo della cosa, ma un giorno mi ha chiamato, cioè, quando due anni fa allenava la squadra qui, sì, all'Armani, sì, e c'era una cosa che dovevamo andare insieme a qualche posto e lui non ha potuto venire, mi ha chiamato lui personalmente per spiegare, cioè, non succede mai nel mondo, cioè, questa è una persona veramente a posto, cioè veramente un grande signore, quindi che se l'ha fatta lui, non ho assolutamente niente da dire, sono contento per lui. Grazie coach. Ciao ragazzi, alla ciao prossima, a tutti. Grazie Dan Peterson. Ciao. Adesso che facciamo? Leggo la 1. Dido su Twitter, la proposta di matrimonio di Leonardo Anna Billò in diretta TV. Sono capaci tutti. Io l'ho fatta in trattoria. Allora ti faccio una io? Sì. Vuoi sposarmi? Ma per carità. Tutti convocati. Dunque, per rispondere a un paio di sms, giuro che quello che sentite nella sigla, cantare nella sigla che introduce Coach Dan Peterson, è lui stesso che suona la chitarra, non è Bob Dylan, caro ascoltatore che lo domandi. E poi sulla storia del Milan anni 70, scambio con l'Inter, c'è chi ricorda, Canuti, Pasinato e Serena furono a contropartita per un certo signor Collovati, centrale della nazionale che non gradiva giocare in Serie B. Marco Firenze, buongiorno. Buongiorno. Senta, ieri sono andato a vedere il Monte dei Paschi contro l'Olympiakos. Sì. E, vabbè, nonostante il Monte dei Paschi non abbia più quella brillantezza di qualche tempo fa, che magari anche a Bobby gli abbiano preso un po' le misure, mettiamoci gli infortuni. Però a me sembra che a quella squadra lì manchi veramente un centro di importanza. Vedevo ieri loro avevano Heinz, insomma, che appena però Marco, questo è un discorso abbastanza vecchio, sono anni che diciamo che a Siena manca il centro dominante. Cioè, provato... Come, ma non lo prendono però? Perché, voglio dire, perché ce ne sono, insomma. Beh, insomma, ce ne sono di dominanti non tantissimi, però tante volte abbiamo detto che anche la Siena delle passate edizioni aveva delle difficoltà al centro dell'area. Però io sinceramente ho visto Eze che era in condizioni imbarazzanti. Cioè Eze mi sembra un po' andato, Sì, un po' andatello. Sì, sì. E quindi mi sembra un punto debole veramente troppo per giocarsela a quei livelli. Lei che ne pensa? Anche in virtù del passaggio del turno ce la farà? Perché insomma adesso è un po' complicato. Si è molto complicata la storia, anche perché ricordavamo prima una differenza canestre negativa nei confronti del Maccabi e nei confronti del Khimki. È un'ultima partita da giocare a Vitoria sul campo degli spagnoli, che non sono mai un cliente facile. È chiaro che ieri sera era una sorta di partita chiave, ed è stato un peccato, perché perdere in quel modo fa un male pazzesco, e questo lo sappiamo. Siena meriterebbe il passaggio di questo turno perché ha fatto una stagione di Eurolega meravigliosa, però come nel calcio a quest'ora dell'Eurolega decidono i dettagli, decidono la differenza punti, decidono i singoli canestri. Adesso è una qualificazione che Siena deve ancora andarsi a conquistare. Speriamo che ne abbia la forza. Gianluca da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo fare prima i complimenti per quanto riguarda la trasmissione, per la sua competenza. Sì, grazie. E la trasparenza nel parlare. Poi volevo un po' riallacciarmi al discorso che faceva l'ascoltatore che mi ha preceduto, per quanto riguarda sia Siena e anche Milano, perché si sente dire da molto tempo che Siena ha bisogno di questo centro, di qua, di là, però la differenza è proprio questa, che Siena ha un'emergenza che fa scegliere i giocatori e non a caso Siena ogni anno cambia e rimane sempre al vertice, chissà perché. E mentre Milano, in giro di 2 anni, ha avuto un budget il doppio di quello di Siena quest'anno e non riesce a trovare la quadratura del cerchio. Perché Siena ha sempre avuto un'intelaiatura e uno scheletro al di là della indubbia competenza su cui andare a costruire, su cui andare ad innestare i giocatori. Quest'anno ha cambiato praticamente tutto, però una certa filosofia societaria si legge ancora dentro questa squadra, che al di là di mille vicissitudini che non possono non pesare e sono scritte anche oggi sui giornali, io credo sia ancora favorito numero uno per lo scudetto, Eurolega a parte. Continuiamo a parlare di basket. Prende il tiro da tre, lo mette! Colpo da giocatore di biliardo al tabellone, più due match, la partita si accende, la serie decolla, il palleggio per Michael Jordan e ha spazio, tutti lo aspettano, può essere l'ultima azione della Ciao Flavio Tranquillo. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ripartiamo da qui, già che ci siamo. Siena che si complica la vita e che meriterebbe un passaggio in Eurolega, un biglietto per altrove in Eurolega, però la sconfitta di ieri sera dolorosissima potrebbe compromettere questo biglietto. Beh, compromettere non lo sappiamo, però complicare di sicuro. Adesso quel girone presumibilmente finirà in volata ed è un po' dipendente anche dagli umori e dalle propensioni di una squadra che è già qualificata da prima sostanzialmente come il Barcellona e di una che è già ultima come il Beşiktaş, quindi anche questo complica ulteriormente. Sì, leggo io, avrei letto anche tu dei guai di Siena che potrebbe essere altri, non so se verrà scoperchiato il vaso di Pandora di questa storia dei diritti d'immagine, non so cosa c'è dietro. Trovo sempre fastidiose le lettere anonime e i plichi anonimi come quelli arrivati al CONI, alla FIPA, alla stessa Siena, alla Gazzetta dello Sport, in cui si dice che Siena avrebbe giocato con le carte fiscali, ma sono tutte cose, vicende da chiarire, però non possono non pesare anche queste voci. Pensare che non pesino sarebbe semplicemente buttare la testa sotto la sabbia. Sulla questione degli anonimi inviterei a ragionare sul fatto che quegli anonimi contengono, per quello che so io, ma indipendentemente da quello che contengono gli anonimi, la vicenda è ricostruibile attraverso documenti ufficiali, almeno sì. dei punti di domanda sulla vicenda sono ricostruibili attraverso documenti ufficiali. Allora mi concentrerei su questo, sì. Se vogliamo parlare di questo, e dobbiamo parlarne perché altrimenti facciamo finta veramente di vivere sul pianeta Papalla. Resta comunque quello dei diritti d'immagine, Flavio, un vaso di Pandora nel nostro basket. Se scoperchiamo quello, allora servirà quantomeno una profonda revisione. E questo discorso è troppo complicato, non perché non lo voglia fare, ma è troppo complicato. Sì. È chiaro che in questo momento il punto è quello, si tratta di definire che cosa intendiamo per quello, ma più che definire che cosa intendiamo per quello, si tratta di disegnare un modello economico di business che sia destinato a reggere. Questo non regge, indipendentemente da tutti gli altri discorsi, questo non regge, ce ne vuole uno che regga. E qua mi sa che casca l'asino. Discorsi lunghi, complicati e anche pidocchiosi, se vogliamo, però giusto farli, così come è giusto fare un paio di ragionamenti sull'NBA. Ieri sera ti sentivo commentare con Pessina New York, Denver New York, e vi siete più volte domandati, avete più volte domandato: Denver è una squadra da titolo? Mi sembra che una risposta non sia arrivata, forse perché non c'è. La risposta non c'è, è una squadra da titolo sì, tecnicamente sì. In questo momento Denver non parte battuta contro nessuna squadra NBA, quindi è una squadra da titolo. Io però penso che una squadra da titolo, oltre a questo, debba avere anche un certo tipo di vissuto a un alto livello, e presumo che per Denver questa sia la stagione in cui costruire definitivamente quel vissuto. Due eliminazioni al primo turno con questo gruppo, se quest'anno passano il primo turno e danno battaglia nel secondo, o passano il secondo e danno battaglia nel terzo, costruiscono quel vissuto che può portare questo gruppo alla fine a giocare veramente per il titolo. Non è molto dissimile Denver da Oklahoma City, però Oklahoma City prima ha fatto una bella serie contro i Lakers, esatto, poi è arrivata alla finale, ha perso contro Dallas di Conference, poi è arrivata alla finale contro Miami e adesso se la gioca per davvero. La strada per il paradiso passa dalla sofferenza. Oklahoma c'è passata, Denver ci deve ancora passare, questo che dici? Più o meno così, posto che questa è un NBA molto particolare, certo, e magari possono succedere delle cose strane, però la logica dice che prima, per imparare a vincere, devi anche imparare a perdere. Benissimo, grazie Flavio, alla prossima. Voi. Next, grazie Flavio, tranquillo. Abbiamo ancora un ascoltatore, o chiudiamo? No, chiudiamo, purtroppo non abbiamo più tempo. Allora, ci sentiamo domani con il magazine dalle 17 alle 18. Domenica ci sono i ragazzi di Dai e Vai, come sapete. E poi lunedì tutti convocati. Vuoi alle sposarmi? 14. No, io no, non mi voglio sposare. Io zappavo la terra. Vabbè, ciao a tutti. Franco Piattari, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Simpatici burloni, ciao. Tutti convocati. Vuoi sposarmi?